Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La condizio sine qua non è che ci devono essere almeno due puntate della trasmissione Voi siete qui sul mio lettore MP3. 24 maggio 2013, a Voi siete qui va in onda una puntata dedicata ai vari grazie. E io chi devo ringraziare? Sono Giuseppe Ciliberti, ho 43 anni, vivo a Milano, sono dipendente in una società che svolge turismo d'affari e ho una figlia meravigliosa di 7 anni di cui sono innamorato. Nella coppia di fatto Caccia Bonini, quello che ha più che un amore per i numeri, una sorta di perversione per i numeri, è Tiziano Bonini. E Tiziano Bonini è da ormai quasi due mesi che mi ricorda che da quando lavoriamo insieme, cioè dal 2008, in un'altra radio, per un altro programma, e poi arrivati qui, in tutte queste stagioni, quella di oggi è esattamente la millesima puntata che facciamo insieme. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:08, quasi 9, di un qualunque 28 giugno 2013, venerdì per esattezza, e questa è, direi, l'ultima puntata di diretta di questa stagione 2012-2013, specifico di diretta perché da lunedì saremo in onda con una sorta di speciale per tutto il mese di luglio, che durerà un'ora, non durerà 45 minuti, dalle 16 alle 17, con le puntate messe insieme per gruppi, per categorie, quindi continueremo a raccontare storie. E ce ne sarà anche più di una in realtà in ogni puntata. Però appunto vi dicevo, da luglio sarà un'ora di programma per tutto il mese di luglio. Fino ad oggi, ed è sempre stato così questo programma più o meno, a parte quando facevamo Vendo Tutto che durava un mezz'ora. Però di fatto dal 2011 siamo in onda dalle 16 alle 16:45. Ecco, la domanda che sembra quasi provocatoria e posso quasi immaginarmi la risposta che nelle vostre teste è: a voi questi 45 minuti a cosa sono serviti? Come li avete usati? 349-238-6666, ma anche sul profilo Facebook del programma, che è sempre quello e rimarrà quello, Voi siete qui Radio 24, e anche quello Twitter, che è Voi siete qui R24. Ve lo chiedo perché la storia di Giuseppe, che abbiamo scelto oggi come ultima puntata, dice con molta chiarezza lui che cosa se ne è fatto di questo programma, cioè come l'ha utilizzato, in che modo, un modo pratico, che non ha quindi a che fare tanto con le emozioni, con i sentimenti. Poi immagino che a modo suo lui sfrutti anche quella cosa lì, però è un modo molto pratico, perché doveva fare una cosa e utilizzava il Voi siete qui per far passare il tempo e per fare quella cosa lì. Adesso vi spiegherò esattamente di cosa si trattava. E voi, questi 45 minuti, come li avete usati? 349-238-6666. Pasquale, ad esempio, su Facebook: viaggio in macchina da Napoli a Salerno e scaricate le storie in podcast, mi faccio il viaggio, così passa il noioso e monotono tempo. Arianna, sottofondo al lavoro, voci, parole, pensieri, come se foste lì con me. Donatella: le puntate di Voi siete qui ascoltate sul momento e registrate ovunque, mentre corri, mentre cammini, mentre sei sul divano cerchi di schiacciare un pisolino. Marina: le uso per cucinare e viaggiare. Tiziana: mi piace sentire le storie degli altri mentre sono in movimento in auto e giro la Toscana per lavoro. 349-238-6666. Vi ripeto, una cosa molto semplice in questa stagione: se ci siete arrivati a breve, va bene anche davvero cosa avete fatto in questo mese in cui avete ascoltato, in questi due mesi, o se ci siete dell'anno scorso, in queste due stagioni di programma. Sono 45 minuti al giorno, è una storia al giorno di una persona diversa al giorno. Che cosa le avete usate a fare? 349-238-6666. Due parole sull'evento di ieri sera, che non è stato trasmesso in diretta ma che era in streaming sul sito di Radio 24 e di cui forse ci sarà una versione per YouTube, probabilmente, forse più avanti. Bonini dice molto più avanti. C'erano un sacco di persone, c'erano 600 persone ieri, la Sala Collina era piena come un uovo. E ringrazio quelli che sono venuti, ringrazio soprattutto quelli che sono stati sul palco insieme a me, che erano quelle 10 persone che ho nominato più di una volta, che erano Maria Teresa, Marco, Gianluca, Stefano, Alex, Cinzia, Agnese, adesso me ne dimenticherò sicuramente qualcuno, Emilio, erano 10 comunque. Trovate una foto sul profilo Facebook del programma in cui siamo tutti e 10. In realtà non c'è Gianluca perché era un po' agitato e si stava ascoltando della musica in podcast, ma lui è un ciclista e quindi fa come fanno gli sportivi. Insomma, non c'era lui, però la foto la trovate sul nostro profilo Facebook. Se invece non ci avete voglia né di ricordare com'era, né di vedere, né non siete venuti, va bene uguale. 349-238-6666. Continuiamo a raccontare storie, lo facciamo anche oggi, che è l'ultima puntata di diretta, e raccontiamo la storia di Giuseppe. Circa 16 mesi fa, da un controllo del sangue di routine, si evidenziano dei valori sballati, anzi sballatissimi. Non ho nessuna intenzione di entrare nei particolari, non intendo annoiarvi con numeri e vocaboli incomprensibili tipo immunofissazione, componente monoclonale in zona gamma e cose del genere. Il medico di base mi consiglia una visita dall'ematologo, l'ematologo dall'epatologo, l'epatologo dal dietologo. Il mio stato di salute non è preoccupante, ma di certo non deve essere sottovalutato. E via che cominciano controlli, ogni 2-3 mesi, dai vari specialisti sopracitati. La patologia è asintomatica, per cui io svolgo una vita assolutamente regolare. Il problema della componente monoclonale è che, se trascurata, può portare ad un tumore nel sangue, di conseguenza deve essere sempre controllata. Circa 8 mesi fa il dietologo mi consiglia vivamente, quasi ordinandomelo, di iniziare a fare attività fisica aerobica e mi dice: certo, il problema non è che si risolve, ma l'attività fisica fatta con regolarità la può aiutare moltissimo. Mio Dio, una persona sedentaria come me, quando mai troverà la voglia di fare attività fisica? In ambulatorio le attese sono lunghe, anzi lunghissime. Così mi premunisco di smartphone in modo che si possa ammazzare il tempo ascoltando la radio. Alle 16 qualche cosa, quasi per caso, mi imbatto in una storia raccontata alla radio. Mi affascina, mi entusiasma. Fino ad allora nessuna attività fisica nei miei progetti. Circa un mese dopo, stessa situazione. Sono nella sala d'attesa dell'ambulatorio di epatologia. Alla stessa ora e sempre per caso mi imbatto in un'altra storia di Voi siete qui. Un'ora di attesa vola in un lampo. Allora inizio a riflettere tra me e me. E se sfruttassi l'appuntamento delle 16 quando va in onda Voi siete qui per iniziare a fare un po' di corsetta leggera? Ovviamente non è facile far coincidere gli spazi dedicati alla corsa con la diretta della trasmissione. E così entra in gioco il podcast. Primi di ottobre, ore 19. Ok. Ho deciso, domani inizio a corricchiare un pochino e userò come sottofondo la voce e le storie che racconterà Matteo. E quindi mi organizzo, lettore MP3 pronto, batteria carica, una puntata di Voi siete qui sulla scheda di memoria. Bene, c'è tutto, si può iniziare a corricchiare. 10 minuti di camminata, 10 minuti di corsettina, 10 minuti di camminata veloce, e per il primo giorno può bastare. Anche perché avrei bisogno di un sostegno, sono fisicamente distrutto. I 3-4 giorni seguenti li passo tra acciacchi e dolori muscolari. Con il passare dei giorni, in 30 minuti faccio sempre meno camminata e sempre più corsettina. Dopo 3 settimane mi sento meglio. La mia vita ora va meglio, mi sento meglio, in quanto ora riesco a fare 5 piani a piedi senza affanno. Il mio peso ponderale è diminuito di 8 kg nel giro di 8 mesi e mi sento decisamente meglio. Mi appassiono. Scarico sul mio smartphone uno di quegli aggeggi che ti dice quanti chilometri fai e in quanto tempo. Insomma, per dirla semplice, un contachilometri da passeggio. Ok, domani provo a strafare. Primi di novembre 2012. Il risultato mi sembra buono. 5 chilometri percorsi in un'ora. Da allora l'intensificarsi degli allenamenti ha portato il mio fisico a correre, ad oggi, giugno 2013, 10 chilometri in 59 minuti. Ma non è questo che conta. Quello che conta è che i vari valori si sono stabilizzati anche grazie alla corsetta e grazie a tutti voi, visto che la condizio sine qua non è che ci debbano sempre essere almeno 2 puntate di Voi siete qui sul mio lettore MP3, in modo da consentirmi di correre. Senza questa condizione io non corro. anche se questa è l'ultima puntata in diretta di questa stagione, anche se durante il mese di luglio in realtà saremo in onda con una selezione di puntate di tutto l'anno, questa non è una puntata di ringraziamenti o di saluti. Ho preferito che fosse Giuseppe, con la sua storia esemplare per qualche verso, a fare una sorta di punto della situazione, di quello che accade alle persone che ascoltano questa trasmissione. Per quello che riguarda me, invece, quello che accade dalle 16 alle 16.45 di tutti i giorni feriali, se ascoltate questo programma, lo sapete. Quella che non racconto, invece, è la parte più intima del programma. È la parte che comincia con un faldone pieno di racconti che mi porto a casa e che lascio sulla scrivania anche per giorni interi, prima di decidermi ad aprirlo e iniziare a leggerli. E lo faccio di solito nel fine settimana, ma anche la sera, quando ho almeno 2 ore di fila libere, senza mail a cui rispondere o il cane da portare fuori. Ho bisogno di un tempo dedicato per prendere in mano quelle storie e entrarci piano piano in ognuna. Le pagine, quando arrivano, quando Margherita le stampa, sono identiche tra loro. Cambia il font, cambia la dimensione del carattere o l'interlinea, e quando hai in mano 200 pagine, non sai da che parte cominciare. Quando poi attacchi a leggere, ogni disorientamento svanisce. Ogni racconto ha un suo carattere, una sua peculiarità e personalità. Ci sono storie in quelle parole e persone, soprattutto. E quei 3, 5 o 10 minuti che impiego per leggere quel racconto sono il momento più privato di questo programma. In quei minuti la persona che ha scritto quella storia mi mostra un pezzo della sua vita e lo fa affidandosi a me, completamente, a me e a noi, insomma, al gruppo di persone che lavora questo programma e che quella storia la prenderà in mano, la elaborerà e la racconterà in onda. E non ne esco mai asciutto dalla lettura delle storie. A volte preferirei anche non immergermi, lo ammetto, preferirei non farmici trascinare, soprattutto dalle storie che fanno male. Vorrei essere un po' come un chirurgo che apre, interviene e ricuce senza batter ciglio, ma non ce la faccio, ovviamente. Ogni volta dei pezzi di quelle vite mi rimangono addosso e me le porto dietro quando mi siedo a tavola o quando sono al parco col cane o al cinema con la mia fidanzata. Quando anche a distanza di mesi leggo un articolo o un libro e mi sembra di avere già vissuto una storia simile, salvo poi realizzare che non l'ho vissuta io, quella storia lì, ma che l'ho letta, tempo prima, dentro a uno di quei faldoni. E non sono mai uscito lindo da quelle storie, mi ci sono sempre bagnato da capo a piedi, e quindi ho vissuto pezzi di vita non miei. Quindi di volta in volta mi sono sposato e mi sono separato, ho partorito e ho perso amici o familiari. Ho viaggiato in posti sperduti del pianeta e scoperto città che non conoscevo. Ho avuto 70 anni, ne ho avuti 16. Mi sono innamorato, mi sono ammalato e sono guarito. Ho chiesto perdono e ho preso degli schiaffi. Ho scalato montagne, ho attraversato dei deserti, ho dato esami all'università. Sono stato rimbalzato a dei colloqui di lavoro. Ho giocato partite sconosciute e corso per chilometri. Sono scappato da situazioni pericolose e ho mancato appuntamenti importanti. Ho riso e ho pianto, tutto standomene seduto a leggere delle storie, le vostre. Spero che anche voi, ascoltandole, non ne siate usciti asciutti e puliti. No, I couldn't tell you how the house burned down last night while we were running around. Night, oh, we were running around, oh. C'è chi l'ascolta per addormentarsi, c'è chi l'ascolta perché passa le notti insonni e vuole passare del tempo, c'è chi l'ascolta per lavorare, c'è chi l'ascolta per viaggiare e c'è chi invece, come Giuseppe, questi 45 minuti ha cominciato ad ascoltarseli perché doveva cominciare a correre per stare un pochettino meglio. Pronto Giuseppe? Pronto Matteo, buongiorno, buon pomeriggio. Come stai? Tutto bene, grazie. Ieri sera, dopo alla fine dello spettacolo della serata, c'era della gente intorno a me, ci chiacchieravo, c'era il libro, l'ebook che era stampato ed era regalato alle persone, quindi mi chiedevano di firmarglielo, di scrivergli qualcosa. A un certo punto arriva questo signore che mi dice: puoi dedicare, scriverci per piacere, ci sentiamo domani? Io ho detto va bene, perché immaginavo che semplicemente fosse un ascoltatore che domani ascoltava. Invece era esattamente Giuseppe. Giuseppe, tu mi hai fatto scrivere ci sentiamo domani, poi alle 4:20 ancora non ti trovavamo. Sì, ho avuto problemi con il telefono perché okay. Era regolarmente acceso e aspettavo la chiamata anch'io con ansia, diciamo così. Dove ti trovi, Giuseppe? Adesso mi trovo a casa, ho preso una mezza giornata di libertà per dedicarmi a mia figlia e dedicarmi a questo spazio con Matteo. Parli di me in terza persona oppure cioè, semplicemente facevi una sorta di enunciato? Giuseppe, mi ricordi che lavoro fai? Sono un agente di viaggio che si occupa di organizzare viaggi d'affari. Cioè tipo incentive? Tipo, è l'unico termine che conosco, incentive, allora, e non no. So cosa voglio dire. No, tipo Radio 24, avrai i suoi giornalisti che vanno in giro per l'Europa, per l'Italia? Certo. Io organizzo il viaggio, dalla A alla Z, o perlomeno viaggio aereo, noleggio auto, soggiorno in hotel, okay. E tutto questo. Abbiamo dei clienti fidelizzati, delle società fidelizzate e io faccio questo. Ma non sei un'agenzia di viaggio, scusami, no? Sei proprio uno consulente? Allora, tecnicamente è un tour operator, okay. E io sono un dipendente, ecco, non sono proprietario, sono un dipendente. Ah, non è il tuo, insomma? No, non è il mio. Ma, ad esempio, stamattina chi hai mandato? No, magari chi, non dirmelo. Dove hai mandato qualcuno stamattina? Questa mattina, beh, diverse destinazioni, ti posso citare Amsterdam, Copenaghen, basta. Detroit, ok, se cercavi la terza... Esatto, cercavo la terza per uscire dall'Europa. Esatto, la cercavi un po' più esotica. Tu ovviamente facendo quello che manda la gente in viaggio, non ci vai a farli questi viaggi, giusto? No, anche perché sarebbero noiosi, nel senso che abbiamo comunque parlato di località che non sono esotiche, no? Ah, certo, tu, solo se vai alle Barbados esatto. O ai Caraibi in generale. Giuseppe, invece facciamo un passo indietro, insomma, tu a un certo punto fai un controllo, il tuo medico ti manda da un patologo, da un emopatologo, tutti quei passaggi lì che li saltiamo. E tra le varie cose, stai facendo anche una cura oppure... No, al momento non sto facendo nessuna cura, quindi, però scusami. I controlli devono essere dettagliati ogni 3-4 mesi, okay. Per cui diciamo che se notiamo dei controlli che vengono, si alzano, dobbiamo intervenire o farmacologicamente oppure, non voglio entrare in un dettaglio perché poi... Va bene, ho capito, insomma, diciamo, però adesso sostanzialmente la cosa è stabile, la stai monitorando e ti dicono devi fare attività fisica. Esatto, mi ordinano come scritto di fare attività fisica. E tu, quando era stata l'ultima volta? Era stato tipo il 64 l'ultima volta in cui ti eri mosso? No, non mi fare così vecchio. No, vabbè. Uso sempre il 64 anche per me, anche se ho 11 anni in più, di meno. No, l'ultima volta, diciamo che con regolarità direi che ci fermiamo agli anni 88. Era 18 anni, per cui... Ok, non sei un amante, insomma, dello sport o della vita all'aria aperta? No, esatto, ok. Diciamo, e quindi cominci a correre, che effettivamente la corsa, no, è accessibile, basta un paio di scarpe buone possibilmente, è una strada per correre, però c'ha un po' il rischio della noia, no? C'è il rischio della noia, ma qua entra in gioco una grandissima trasmissione. Entra in gioco, ok, ci fermiamo, facciamo un passo indietro perché altrimenti qua cominciamo ad autoincensarci, quindi è proprio quello che volevo evitare. Okay. Quindi di fatto questo è quello a cui ti è servita questa trasmissione, Giuseppe. Hai trovato il modo per fare una cosa che dovevi fare e farla passando del tempo. Giuseppe, io ti ringrazio perché tu sei l'ultimo di fatto ospite, in realtà protagonista di questa puntata. La tua storia è arrivata in maniera un po' strana perché tu mi hai scritto una mail, una sorta di mail di ringraziamento, io ci ho preso e ci ho fatto una storia, però ti ringrazio anche e soprattutto per come ci avevi ringraziato. In bocca al lupo Giuseppe, continua a correre e buona estate. Grazie anche a tutti voi, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao Matteo, io ti sento mentre lavoro col cellulare, sarà banale ma in questi 45 minuti faccio molti viaggi e allora goditeli. Voi siete qui. C'è una fotografia come tutti i giorni, anche quest'ultimo giorno, sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, ed è la foto di Giuseppe. Giuseppe è con una bimba che immagino essere sua figlia, entrambi tengono in mano un cartello, una foglio A4 con la scritta Io sono qui, ma la cosa fondamentale per la storia e per lui è che hanno su una maglietta con un numero di pettorale e sono proprio al traguardo di una qualunque corsa. Radio sostantivo femminile invariabile, abbreviato di radiofonia, radiotelegrafia e talvolta anche di radiotecnica. L'ente o servizio pubblico, qualsiasi organizzazione privata che provvede alle trasmissioni radiofoniche. Come aggettivo, di impianto, dispositivo o servizio che emette, riceve o utilizza le radioonde. Apparecchio radioricevente. Data 1918. E questo è il giorno giusto per ringraziare la voce che avete sentito in questo momento, che è di là in regia, adesso in diretta, che è con lei anche quelli che hanno, insomma, prestato la loro voce per raccontare il dizionario di Voi Siete Qui. Alessandra De Luca, che ieri era presente e si è presa la sua dose, giustamente, di applausi. Io però, appunto, per tornare a ieri sera e poi chiudere, ho fatto quegli errori che quando li fai ovviamente non te ne accorgi, e poi dopo mezz'ora, un'ora ti salgono alla testa e dici no. Ma come ho fatto a dimenticarmi? Sostanzialmente, a ringraziamenti io non ho chiamato Pietro La Corte, che oltre ad aver fatto magistralmente tutta la regia tecnica della serata, ci ha fatto anche un piacere di fatto il giorno prima. E quindi grazie a Pietro La Corte, grazie a Paolino Corleoni, che è stato con noi quest'anno e ha montato le fotografie che avete visto passare ieri, se l'avete visto in streaming o se l'avete visto dal vivo. E grazie a Fabio Cantadori, che oggi è in studio un po' come se rappresentaste tutti i tecnici di Radio 24. Prima di salutarci, oggi come al solito alle 16:45, insieme a Tiziano abbiamo deciso di fare una cosa che di solito non si fa, ed è che sostanzialmente abbiamo in serbo un progetto nuovo per il futuro che non sappiamo ancora esattamente quando partirà. A settembre, se non casca il cielo, per citare Maria Teresa Borsò, ripartiamo con questo programma, e quindi continuate a scrivere storie. Voi siete qui, @radio24.it. Ma abbiamo in serbo un altro programma che ha a che fare con le storie delle persone, ovviamente, ma più che altro ha a che fare con l'età della vita che ognuno di noi vive, col modo in cui ognuno di noi vive la propria età e come l'età della vita di ognuno di noi siano probabilmente simili all'età della vita delle altre persone. E quindi l'idea è proprio quella di raccontare l'arco di una vita come se la raccontassimo, come se fosse la nostra, però semplicemente facendola raccontare stando vicino a delle persone che stanno vivendo un momento fondamentale della loro vita, un'età della loro vita, dagli 0 ai 90 o 100 anni, passando per le età fondamentali, per quelle principali, i 5, 10, 15, i 18, i 22 e i 23. Quello che stiamo per farvi sentire è proprio un assaggino, è un piccolo pezzo di, come se fosse una prova, che abbiamo registrato qualche mese fa, per la quale tra l'altro ringrazio Marco, che mi ha dato la possibilità di stare con lui un giorno intero, che ha 13 anni, che ha 11 anni, perdonatemi, Elia e tutta la sua famiglia. Gli sono entrato in casa e praticamente gli ho fatto una serie di domande e ho cercato di raccogliere più informazioni possibili per cercare di capire come si vivono gli 11 anni, come si vivono l'età della vita. Questi sono gli 11 anni di Marco e sono, credo, un po' gli 11 anni di tutti noi. Vorrei arrivare alle nazionali, fino alle nazionali, e poi se ho ancora voglia, voglio andare anche avanti, mi spingo fino agli europei. L'ambiente è illuminato da una grande vetrata che fa entrare il sole delle 3 del pomeriggio, ma la luce non basta a smorzare quell'atmosfera di tiepido squallore che si respira sempre in tutte le piscine al coperto. È strano come le piscine all'aperto, anche se brutte, abbiano sempre un'aria di vacanza, e quelle al coperto abbiano invece sempre un'aria da perenne dopo scuola forzato. Dall'altra parte della vasca, un gruppo di 5 o 6 ragazzini fa esercizi di allungamento sotto la guida di un adulto che li osserva. Entra Marco, saluta, chiede scusa per il ritardo e attacca anche lui con gli esercizi. Ci sono un garbo e un'educazione nei suoi 11 anni che mi fanno pensare che non è vero per niente quello che si dice sui giovani di oggi, che sono maleducati, inopportuni. Non è vero, proprio per niente. Il suo gruppo fa esercizi per circa 20 minuti e poi si butta in acqua. Cioè, mentre nuoto penso a quello che devo fare dopo, tipo quando esco che i compiti devo fare, così, perché poi certe volte ho anche l'interrogazione. Poi penso a, tipo il mio allenatore mi dice come fare una nuotata, oppure penso a quello che devo fare. Avevo 10 o 11 anni anch'io quando andavo in piscina. Non lo so, forse quella è l'età in cui i genitori si guardano in faccia e dicono: ok, è ora che nostro figlio impari a nuotare. Andavo alla piscina di Vigevano con il pullman che partiva dalla piazza del mercato del mio paese. Mi imbarazzava spogliarmi e quindi mettevo il costume già a casa, sotto la tuta, anche se era scomodissimo e mi tirava così forte sull'inguine che mi lasciava due solchi. Non ricordo il nome dell'istruttore, ricordo solo che aveva i baffi e non aveva pietà, nessun tipo di pietà. Anche se ti vedeva annaspare a metà vasca e ti avvicinavi al bordo per respirare, lui non aveva pietà e forse non lo faceva. Però a me sembra proprio di ricordare che fosse pronto a pestarti le mani con le sue ciabattone di plastica blu se ti azzardavi ad aggrapparti al bordo per prendere fiato. Era lui che aveva messo in giro la voce che nell'acqua della piscina c'era una sostanza che se ci facevi la pipì dentro la colorava di rosso. Non è mai successo, ovviamente, ma io me la sognavo di notte, quella chiazza rosso sangue e tutto intorno a me, ad indicare che ero io il colpevole, mentre quelli in acqua si allontanavano e quelli fuori mi deridevano. Lo stile libero mi veniva bene, mi era venuto bene sin da subito. La rana così così. Il dorso, invece, quello lo odiavo. Non riuscivo a non bere ad ogni bracciata. L'acqua mi finiva inevitabilmente in bocca o nel naso proprio mentre stavo inspirando. E non capivo perché qualcuno avrebbe dovuto nuotare a pancia in su in quel modo così scomodo e innaturale. Quando ci facevamo la doccia, dopo il nuoto, mi insaponavo per bene, strofinandomi dappertutto, ma non serviva a nulla. Quell'odore mi rimaneva addosso fino al giorno dopo. Lo sentivo la sera, prima di addormentarmi. Saliva dal caldo delle coperte rimboccate. Sono passati 28 anni e oggi lo sento ancora, quell'odore di cloro. Qui, in questa piscina moderna nella periferia milanese, con le pareti colorate e la luce forte che passa dalla vetrata, con lo stesso odore, umido e soffocante. Fate un respiro. Ditemi se non lo sentite anche voi, l'odore di quell'età, la paura dell'acqua alta e di quella vasca infinita che non finisce più. Sì, anche voi siete qui insieme a me a guardare Marco che nuota come un delfino e per pochi minuti anche voi state nuotando nell'acqua tiepida dei vostri 11 anni. The water here is so clear, I can see to the bottom. It's so strange in winter, all this will be frozen solid. I tell you, it feels new to go swimming somewhere nothing can eat you. Chi non c'era ieri sera e quindi non ne ha una copia cartacea in mano può da qui a tutta l'estate andare sul sito di Radio 24, alla nostra pagina. Voi siete qui e scaricarsi gratuitamente l'ebook di questo programma prima che finisca, quando finirà e non ne rimanga più nulla. Ma non rimarrà più nulla, semplicemente per dare spazio a una cosa nuova che in nuce è quella cosa che avete sentito. Poi probabilmente si svilupperà, cambierà, diventerà un'altra cosa forse. Però l'idea è quella di raccontare quello, raccontare l'età della vita affiancandoci a persone che quell'età la stanno vivendo, dagli 0 ai 100 anni. Avevamo deciso che non era una puntata di ringraziamenti, però, e infatti così non sarà, però visto che lunedì noi passiamo la parola, passiamo la palla dalle 16 a noi stessi sostanzialmente, cioè siamo sempre noi che ci diamo la palla, quindi capita delle volte, di solito quando c'è qualcun altro che prende il posto si dice ah vieni in studio, allora lunedì cosa fai? Lunedì siamo sempre noi, però di fatto siamo dei noi un po' diversi, no? Nel senso che ci sono io, c'è Bonini, però non siamo proprio noi, quindi abbiamo deciso semplicemente di fare una sorta di telefonata con il futuro e di sentire quel Matteo là di lunedì. Pronto Matteo? Pronto, come va? E allora sei pronto? Guarda, adesso sono ancora in vacanza. Sta venendo una porcheria, ragazzi. Vado avanti lo stesso. Guarda, adesso sono ancora in vacanza, però lunedì sarà tutto a posto, alle 16, dalle 16 alle 17. Benissimo, allora ti lascio il posto. Salutami il Tiziano di lunedì, Tiziano di luglio, salutami anche la Margherita di luglio. Io ti saluto queste. Benissimo, vado a farmi un tuffo che poi da luglio cominciamo noi. Ciao, grazie. Ciao Matteo, io chiedo scusa per questo terribile momento di radiofonia, però ringrazio le persone che hanno reso possibile questo programma. Margherita Ina, che è la colonna silenziosa di questo programma, senza di lei non sarebbe possibile. Tiziano Bonini, con cui facciamo programmi da 1000 puntate, Mauro Pescio, che scrive insieme a me, Stefano D'Andrea, che scrive insieme a me. Ieri sera una persona mi si è avvicinata e mi ha detto: tu fai un programma che ha una grandissima valenza politica. Mi ha detto così, ho detto: questo è pazzo completamente. E lui mi ha detto: no, perché raccontare storie è un gesto politico, raccontare il modo in cui le persone affrontano la vita e affrontano il modo è un atto politico. Mi ha detto: non c'è nulla di più politico che far conoscere possibilità e soluzioni diverse. E allora fate una cosa, fate politica, continuate a raccontare storie. A settembre. Voi siete qui.